Sì. Porco Rosso, mettiti subito in volo. È apparsa la banda Mamma Aiuto. Di Mamma Aiuto? Non accetto lavori mal pagati. Puntano a una nave a Nolo Veneziana carica dei salari di una compagnia mineraria. Soltanto questo? Beh, no, ecco. A bordo ci sarebbero anche le alunne di una scuola femminile in gita. Questo ti verrà a costicchiare. Applicherò il comma terzo dell'articolo 14 del contratto. Direi anche il comma quarto. Fermatevi! Se non vi fermate vi faremo affondare! Fermatevi! Più presto si dovrà fare una revisione. Siamo informate! Un teschio! Com'è ben fatto? Presto, venite! Che c'è tanto da fare, insomma! Sarebbero in 15, le portiamo via tutte quante! Per chi rimanesse esclusa sarebbe spiacevole, no? Tardi. Si sono presi le bambine e le monete d'oro! Riportacele indietro! Sono scappati da quella parte! Stai sbagliando! Non da quella parte! No, che non mi sbaglio, conosco il loro gioco. Volano fino a scomparire dalla vista e inevitabilmente cambiano subito rotta. Siccome sono poveri pazienti, per stringere sul costo del carburante andranno su un'isola nei dintorni. Accidenti! Rimane molto tempo. Beccati! Ma dai, è un aereo turistico in giro sulle isole. A stare a divertirvi da queste parti, finirete per farvi rapire in compagnia! Che notte! Ma che baccano! Stiamo volando! Ma insomma, non si fa! State buone, per favore! Ehi, fa qualcosa, dai! Basta, avevamo chiesto se bisognasse portarle via tutte! Ah, ah, ah. solo per un pochino, eh? Che in effetti non potreste mica. Che bello, eh? Ah, guarda! Un aeroplano rosso! Dove? Dove? C'era, vero? Vero? Ormai non scappate più! Ecco, arriva! Arriva! È porco rosso! Precipitiamo! Ce n'è anche un'altra! Merda, ma come diavolo si permette? Fuoco, spara, crivellalo! Che forza, l'aeroplano rosso! Non riesci a colpirlo! Segnali dal maiale! Siete sconfitti! Ascoltate quanto vi dico! Silenzio! Arriva, arriva, arriva da questa parte, giù la testa! Dov'è? Dov'è andato? Si è nascosto! Affondiamo! Questo è un idrovolante! Eh? Ah! Smettetela! È pericoloso! Fermatele! Sono preziosi ostaggi! Non preoccupatevi, noi siamo piccole iscritte del Circolo del Nuoto! Non è questo! Non intendevo questo! Eccomi! Di nuovo comunicazione dal maiale! Vi faccio tenere metà dell'oro! Lasciate il restante agli ostaggi e sparite! Altrimenti vi massacrerò tutti quanti. Sta dicendo così? Metà dell'oro! Silenzio! Fatti sotto, porcellastro! Sarà l'ultimo confronto! Prendi! Ma che... Non funziona! Ci arriviamo! Ci arriviamo! Ci arriviamo! Ci restano almeno i soldi per le riparazioni! Pezzo d'idiota! Tieni più alte le tue aspirazioni! Buone! Statevene buone! Ma non dovete tirare lì! Lo rompete! È pericoloso, non dovete avvicinarvi all'elica! La pipì! E falla là in giro! Pare che quelli della mamma aiuto oggi non potranno venire. Merda, quello sporco cacciatore d'Italia si permette di darsi aria da eroe. E comunque, quel giovanotto è un americano, giusto? Affidarsi a un americano sarà la vergogna dei piloti di idrovolanti dell'Adriatico. Ma no! Una sua nonnina è per un quarto italiana. E in ogni caso bisogna fare qualcosa per Porco, se no lor signori saranno nei guai. Tuttavia, il 10% è esorbitante. Shhh. Nous chanterons le ton de cerise et rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, chifflera bien mûr le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, cueillant rêvant, dépendant de rêves. Cerise d'amour, au rebout pareil, tombant sur la faille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, quand cailloux rêvons. È arrivato. Mm? Infame, che muso disgustoso. Che si permette di atteggiarsi. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur. Signor Porcorosso, sono un inviato speciale del Neptune. Anche stavolta è stata una meritevole impresa. La banda Mamma Aiuto ci metterà un bel po' a rimettersi in sesto, eh? A proposito, sulla previsione del totale delle taglie di quest'anno, si può dire che supererete tranquillamente l'anno passato? Ma... un momento! E tu? Lasciami andare, insomma! Ma che... Il canto si ascolta in silenzio. Che persona meravigliosa. Madame Gina dell'Hotel Adriano è famosa persino tra i piloti di idrovolanti della regione. Si dice che da lei sia i pirati del cielo, sia i cacciatori di taglie facciano i bravi. Il Curtis qua fuori è roba tua? Già, per portarmi fama e ricchezza, un serpente a sonagli porta fortuna. Quello che alla Schneider Cup ha stracciato per 2 anni di fila gli aerei italiani. Non è solo veloce, è forte anche nel combattimento aereo. Ma da queste parti pare sia un maiale detto Porco Rosso a guadagnarsi grande notorietà. Se devi associarti con i pirati del cielo, fa attenzione, giovanotto. Quelli là sono poveri pezzenti e non facendosi manco il bagno puzzano pure. Senza dubbio. Che hai detto, razza di porcellastro marcito? Ma cosa c'è questa sera che si sono riuniti tutti i grand'uomini e state di nuovo complottando? Indovinato. Sono lieta che siate venuti. Però giocare la guerra non è permesso. Ma lo sappiamo, Gina. Entro 50 chilometri da questo locale noi non lavoriamo. Persino con il maiale andiamo d'accordo, vero? Mm? Che bravi ragazzi. Ci si rivede. Porco, raccontaci una tua storia. Dai! Un'altra volta, quando saremo in due da soli. Che buffo quel signore americano. Ha guardato appena il mio viso e sposami, mi ha detto. E così gliel'ho spiegato. Che mi sono sposata con piloti di idrovolanti per 3 volte. Ma uno è morto in guerra, un altro è morto sull'Atlantico, mentre l'ultimo invece è morto in Asia. Hai saputo qualcosa? Mi è stato comunicato oggi. Hanno ritrovato il relitto nei recessi del Bengala. Ho aspettato per 3 anni. Ormai le lacrime saranno prosciugate. Quelli bravi muoiono tutti. Agli amici. Marco, ti ringrazio di restarmi sempre accanto. Ormai sei rimasto soltanto tu della vecchia compagnia. L'unica cosa che non mi va di questo locale è che quella fotografia non venga tolta. Non pensare di strapparla, che è l'unica sulla foto rimasta dal tempo in cui eri un essere umano, Marco. Chissà in che modo si potrà mai sciogliere il maleficio che ti è stato imposto. Americano, ci sa fare. Ma che invidia. Vorrei anch'io poter guadagnare così tanto. Il pagamento di questo mese. Il mutuo dell'idrovolante è estinto. Che ne direbbe di acquistare un qualche titolo patriottico così da dare un contributo alla comunità nazionale? Cose di questo genere fatele fra voi umani. Benvenuto, signor Porco Rosso, è finita. Dammi anche 60 munizioni. Sì. In superficie c'è molto clamore. Ah, davvero? Forse cambierà di nuovo il governo e allora chissà, anche voi altri a breve sareste messi fuori legge. Per i maiali non c'è né patria né legge. Non ha sbagliato, lo stesso è anche per le talpe. Basta il solito, ci sono arrivate anche bombe incendiarie ad alto potenziale e munizioni perforanti. Ragazzo, noi altri non è mica che facciamo la guerra. Alla prossima. Grazie mille. Ehi, principale, tra fare la guerra e cacciar taglie, che differenza c'è? Eh? Beh, vedi, chi guadagna con la guerra è un farabutto. Chi non riesce a guadagnare cacciando taglie è un imbecille. Contrarre un mutuo non si addice a dei pirati del cielo. Non c'era altro da fare! Con l'accumulo delle spese di riparazione! Gli aeroplani alleati! Ma dico, per quale trama del destino dovremo mai associarci con simili sciagurati? È colpa del maiale, del maiale! Ma tu dimmi, quelli della Mamma Aiuto non hanno neanche i fondi per la vernice? Proprio inguardabili. E finalmente siamo tutti presenti. Ehi, come va sul retro? L'americano è arrivato? Si trova all'interno del sole! Sta facendo come da teoria! Obiettivo avvistato! È la regina del Mediterraneo! Assalteremo una nave così enorme! Non è per questo che abbiamo formato un'associazione? Niente tremarella! Qui problemi al motore, restiamo in copertura! Andate avanti voi! Arnato, sei un imbroglione, fate come si era deciso! I costi di riparazione per eventuali danni saranno condivisi, eh? Ma che razza di donnicciolo, è ovvio che ciascuno pagherà le proprie spese, no? Anche le bombe sono spese proprie! I problemi al motore! Queste faccende erano già state risolte! Se i costi non saranno condivisi, noi molliamo! Ah, silenzio! State zitti! Comunicato ai passeggeri, comunicato ai passeggeri! I pirati dell'aria stanno puntando a questa nave. Vi preghiamo tuttavia di tranquillizzarvi. Questa nave è armata di eccellenti idrocaccia. Andiamo a presentarvene i due valorosi piloti. Aereo numero uno, lo stallone nero, il signor Baracca. Aereo numero due, il lupo del Tevere, il tenente Visconti. Portati la guardia del corpo! Non si era sentita una storia così! Ai ai, si sono lasciati scompigliare! Non venire da questa parte! Carti! Venone, aspettatevi! Siamo proprio agli sgoccioli. E infatti non resta che portarlo a Milano. I due piloti sono stati abbattuti, ma sono riusciti a salvarsi lanciandosi con i paracadute. L'alleanza dei pirati del cielo, impossessatasi di tutti i valori di detta nave, ha lasciato il seguente messaggio. Il prossimo sei tu! Vieni fuori, maiale! Ripetiamo. Il prossimo sei tu. Vieni fuori, maiale. L'evenienza di questo assalto? Ce l'avete fatta, razza di immondizie. Spiacente, ma io sono in vacanza. Lenzuola bianchissime, bellissime donne. Thank you. Reggi fino a Milano, motoruccio! Messo un tempo che non mi piace affatto. Non mi resta che passare sotto alle nuvole. Bravo, fatti forza, su, su! Così, così, sei proprio bravo, motoruccio! Siamo uno contro uno, battiti! Adesso non è proprio il caso! Non scappare o lo racconterò a tutti quanti! Ci si rivede, americano! Accidenti, sono sbucato fuori! Diamine! L'ho beccato! Non mi hanno preso i due colpi, dannato, è una avaria! Ce l'ho fatta! E con questo sarò anch'io una celebrità! Yahoo! Se tornassi a mani vuote, quelli non mi crederebbero. Ci vorrebbe qualcosa come prova. Hm? Trovata! Questo rosso così frivolo, non c'è alcun dubbio. Sarà un bel ricordino per mia madre in Alabama. In fretta, per piacere. Signora! Signora! C'è una telefonata, è sano e salvo, è ancora vivo! Vogliate prendere la telefonata da ricevimento? Marco, sei proprio tu? Sei ferito? Stavo venendo adesso a cercarti con la barca. Capisco. Meno male. Sono dimagrito per benino, stando circa 2 giorni su un'isola deserta, sai. Adesso me ne vado a Milano per far riparare l'aeroplano. Se quell'americano dovesse tornare al locale, potresti riferirgli che ci si rivede alla prossima. Ma insomma, pensi che le persone siano bacheche per messaggi o simili? Per quanto ci possiamo preoccupare, voi piloti di idrovolanti, non considerate le donne che a livello delle bitte sulla banchina, non è vero? Marco, tu prima o poi finirai come maiale arrosto. Io non lo voglio un funerale del genere. Un maiale che non vola è solo un maiale. Stupido! Immaginando che sareste arrivato intorno a stanotte, ti stavamo aspettando. Ti porto di nuovo disturbo. Certo, è stato di nuovo ridotto malaccio. Non si farebbe prima a prenderne uno nuovo? È che lui vorrei tenermelo. Ma capisco il sentimento. Allontanatevi che esco in retromarcia! Chi sarebbe quella graziosa tipetta? È una mia nipote che stava in America. Vai, vai! Vai! Wow, che aeroplano stupendo! Nonnino è stupendo, eh? Ha un'ottima linea. Al giorno d'oggi artigiani capaci di fare un lavoro simile non ce ne sono. Non ti assomiglia. Nonnetto, ma è davvero tua nipote? Tieni giù le zampe. Fio, ti affido il resto. Faccio io. L'avversario è un Curtis. Vorrei 15 nodi circa in più. Un Curtis? Che nostalgia. Che te ne pare? Ma questo non è un folgore. Non chiederne la fonte. Nella Schneider Cup del 1927 l'aereo italiano che lo montava venne sconfitto da un Curtis. Però non fu per colpa sua. Fu perché il meccanico era un incapace. Mi ribolle il sangue. Non fargli una messa a punto troppo delicata, che non si tratterà mica di una gara. Dicendo così, sai, fai come quel che in Asia si chiama predicare al Buddha. Ma vuoi prenderti tutto il contante che ho? Di questi tempi, sai, i mazzi di banconote non hanno che il valore di comune carta straccia. Tira fuori anche i soldi che hai in tasca, per elica e verniciatura. Quelli sono per il mio soggiorno, tipo spese per l'albergo, il vitto. Puoi fermarti qui, spese di vitto incluse, ti farò un buon prezzo. Non vedo traccia dei tuoi figlioli, sono in buona salute? Tutti e tre a lavorare fuori. Ma allora chi si occuperà del progetto? Ci penserà Fio. Fio! La ragazzina di prima! Nonostante la giovane età, in Fio c'è qualcosa che i miei figlioli non hanno. Nonnetto, il nostro è un rapporto di lungo corso, ma stavolta il lavoro dovrò farlo svolgere ad altri. Aspetta! Sei inquieto perché io sono una femmina? Oppure perché sono troppo giovane? Per entrambe le cose, signorina. Capisco, è naturale. Senti, potresti dirmi qual è il primo requisito di un buon pilota? L'esperienza? No, è l'ispirazione, sai. Meno male che non mi hai detto che è l'esperienza. Senti, l'ho saputo dal nonnino, però diceva che il tuo battesimo del volo in solitaria fu molto presto, vero? E che eri molto abile sin da allora. Era il 1910, quando avevo 17 anni. 17 anni? Proprio quanti ne ho io adesso? Certo, non posso smettere di essere una femmina, però mi faresti tentare, ho anche i disegni originali. Se non dovesse venire bene, non prenderemo un soldo. D'accordo, nonnino? Sei mia nipote, ce la farai alla grande. Che anch'io, sai, quando avevo 12 anni già smontavo i motori. Stanotte dormi con questo, per domani ti preparerò un letto. La colazione è alle 7, la doccia all'acqua calda, ti ho messo un asciugamano, passa una buona notte. Di soldi ne mancano un pochino, ma siamo vecchi amici. Per il restante ti farò credito. Buongiorno, riuscite a dormire? Tu hai fatto nottata? È soltanto la bozza di progetto, ma che ne dici? La pianta la lascerei com'è, ma vorrei adottare un nuovo profilo alare. Solo con questo dovrebbe andare 5 nodi più veloce. Il disegno originale, guardandolo, mi sono stupita. Anche le ali erano in monoscocca di legno, eh? Questi resoconti sono incredibili. La persona che ha costruito queste ali conosceva davvero bene le proprietà del legno. Mi sono emozionata. Quello lì, sai, fu realizzato solo in un unico esemplare, ma dato che volarci era pericoloso, stava a prendere polvere in un capannone. E infatti, con un assetto così radicale, chissà come riuscivi a farlo staccare dall'acqua. Il difficile è solo nelle fasi di decollo e atterraggio. Portato a regime sono le ali a mantenere l'aderenza. L'incidenza delle ali aumentamela di 0,5 gradi rispetto al disegno. Per il resto, così com'è, procedi pure. Mi permetti di occuparmene? Ti ringrazio. Ci metterò tutta me stessa. Però, signorina, c'è soltanto una condizione. Non fare più nottate. La mancanza di sonno è nemica del buon lavoro. E inoltre non giova neanche alla bellezza. Farò come dici. Sai, è che l'altra notte il cuore mi batteva forte forte e proprio non riuscivo ad addormentarmi. Beh, per dire la verità, temevo che alla fine non mi avresti affidato questo lavoro ed ero preoccupata. Quindi sono contenta. Faccio il caffè! Non verrà mica a dirmi che anche la costruzione la farà tutta da sola. Quindi mia nipote Monica ha la tracciatura. Molto piacere. La moglie di mio nipote Silvana ha le rifiniture. Le figlie di mio cugino Sofia, Laura, Costanza e Valentina. La sorella maggiore di Fio, Gigliola. Sandra, sei venuta anche tu. È una cugina. Marietta, come sei diventata bella. Le mogli dei miei figli, Maria, Tina, Anna e sua sorella minore, Miretta. Porcellino! Nonnine! Beh, ancora non vi hanno chiamate in cielo? Certo che tu ti sei fatto proprio un bell'uomo. Ma lavorate anche voi, nonnine? Vogliamo dare la paghetta ai pronipoti. Non c'è un singolo uomo. Già. Sono tutte parenti tue, paparino. Proprio così. E da queste parti non c'è più lavoro e gli uomini sono andati tutti a lavorare fuori. La cosiddetta grande depressione? Non preoccuparti. Le donne sono in gamba, lavorano bene e hanno forte perseveranza. Ma non si tratta mica di preparare frittelle, eh? Oh, signore, che sei alto nei cieli. Tu che hai ridato pane e lavoro alla nostra ditta che versava sull'orlo del fallimento. Ti prego di perdonare questo peccatore che si fa prestare le mani delle donne per costruire un idrocaccia. Amen. Forza, mangiamo con gusto e lavoriamo senza sosta. Questo motore è uno sballo! E allora tira bene, vero? Vedi di non esagerare o ti volerà via il capanno! Eh? Un Curtis non gli pulisce neanche il sedere! Senz'altro una buona idea. Vero? E allora ti prego. Però vedi, tutto questo sarebbe molto costoso. E le fatture che sforano sul preventivo sono diventate già così tante. Sta al committente. Porco. Ho capito. E non guardare la gente con quegli occhi. Fa come ti pare. E vai! Mi sono già sentita con la fabbrica. Vado subito a fare l'ordine. Porco, ti voglio tanto bene! In qualche modo potrò aspettare 3 mesi. Cambierò lavoro per fare il pirata del cielo. È una brava piccola, eh? Mm? Tieni giù le zampe. Mi avete così svenato che non ho più sangue da scaldare. Maggiore, sei stato promosso, Ferrarin. Che stupido. Per quale ragione sei tornato? Io vado dovunque mi vada di andare. Stavolta le autorità non chiuderanno un occhio. Sei stato pedinato. Li ho seminati. A tuo carico è stato emesso un mandato di cattura per non collaborazione antistatale, espatrio e rimpatrio clandestini, idee degenerate, crimine d'essere un maiale di sfrontata indolenza ed esposizione d'oscenità. Razza di idiota, ti pare ci sia da ridere? Parlano anche di confiscare il tuo idrocaccia. Certo, è proprio un film tremendo. Senti, Marco, rientra in aeronautica. Ora come ora, con il nostro potere, in qualche modo faremmo. Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. L'epoca degli aviatori di Ventura è finita. Non resta altro che volare su barcate di sponsor triviali come lo Stato o la Nazione. Io non volo che con i miei proventi. Anche volando un maiale resta un maiale. Ti ringrazio, Ferrarin. Salutami tutti quanti. E invece è proprio un bel film. Fa attenzione, quelli non hanno intenzione di portare in giudizio un maiale. Già. Addio, camerata. Proprio salvato. L'ho preso in prestito per trasportare l'aeroplano al lago domani. E alla fine siamo alla prova di volo. Della prova faremo a meno, devo prendere subito il volo. Oh, ma non dire scemenze, non consegnerò senza aver condotto neanche una prova. E inoltre solo per smontarlo e trasportarlo al lago ci vorrà una giornata. È che non c'è tempo, prova a guardare sul retro da quel finestrino. Con cautela. È la polizia segreta fascista. Ti stavano seguendo, Fio. Seguendo me? E perché mai? Perché io avevo seminato i miei pedinatori. E inoltre perché tu, Fio, stai armeggiando col mio idrovolante. Senti, ma tu, porco, in realtà sei una spia. Io una spia. Cose come fare la spia, sai, sono mestieri per tizi più diligenti. Però durante la guerra sei stato un eroe, giusto? E allora è strano, se non hai fatto niente. Anche io la penso così. Ops, non era questa la strada. Certo, non sembra che tu non abbia fatto niente. Avanti, avremo parecchio da fare. Pronto al decollo quando vuoi. Anche sul retro sono in due nascosti e poi davanti ce ne sono tre. Certo che però è emozionante. Nonnina, cerca di non sgambettare troppo. Io vado. Fa attenzione. Grazie. Zio, cos'è questa pagliacciata? Vengo anch'io. Aspetta 5 minuti che mi fabbrico l'abitacolo. Vediamo di non scherzare, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Shh, guarda che non dobbiamo alzare la voce. Fio, sta a sentire. Tu sei una ragazzina rispettabile e per di più sei ancora da sposare, il Puoi che... Puoi tenerlo da quella parte? Eh? Ecco, grazie. Costruito in tutta fretta, guarda. Preciso. Potresti reggerlo da quella parte? Ehi, signorina, io sono un cacciatore di taglie ricercato come criminale. Non parto mica per un volo turistico. Ti chiedo scusa, però dato che è il mio primo lavoro voglio farlo accuratamente. Una volta in volo dovrò metterlo a punto. Però ascolta, decollerò dal canale sul retro. Non so neppure se riuscirò ad alzarmi in volo indenne. Allora ha maggior ragione. E inoltre, se ti batterai con il Curtis, ti ci vorrà un bravo meccanico, no? Sta a sentire, io sono un maschio e noi due da soli ci accamperemo su di un'isola deserta. A posto, tanto a me piace il campeggio. Non è questo. Portala con te. Se non vincerai contro il Curtis, ti resteranno conti da saldare. E se diventerai insolvente, la nostra ditta fallirà. E tu in questo saresti suo nonno? Il suo stipendio te l'abbono. E poi guarda, ti includo anche il tubo acustico. Ci tieni proprio a rendere tua nipote una ricercata. Mm-hmm. Io diventerò un tuo ostaggio, porco. E così avremo una scusa con le autorità per cui il personale dell'officina non avrebbe potuto che collaborare con te, giusto? E quindi ti prego, portami con te. Saprò esserti utile. Smonta la mitragliatrice sul lato destro. Eh? Per piccino che sia il tuo sedere, lo spazio tra le mitragliatrici è troppo stretto. Ne lasciamo a terra una. Meno male! Il mio sedere è più grosso di quanto sembri. Ci metto un minuto. Partiamo subito, che a intontirmi mi spingerete a portare financo una nonnina. Già, ci sarebbe stata anche questa via. Nonnina, fa presto, presto! Fio, lascia stare per i ricordini. Contatto! Aprite! Lascia È un cavallo riottoso tale quale a te ed è diventato ancora più radicale. Fermati un momento! Modifica l'assetto! Non abbiamo tempo da perdere! Proverò a farlo alzare in qualche modo! L'acqua è in completa aderenza! Barca dritta! Si vola! Rientra, cavallo riottoso! L'alettone si sta scontrando con l'acqua! Usa il compensatore! Il nuovo aggiunto! Presto! Renone, d'un tratto si è fatto docile. Stupendo! Il mondo è davvero stupendo! Un inseguitore? Rispetto a un attacco, la manovra è diversa. Qui abbiamo un'improvvisata dell'aeronautica italiana. Sarà quel furfante di Ferrarin. Lo conosci? Dice che più in là l'aeronautica ci sta tendendo un tranello e che ci indica lui una scappatoia. Sta dicendo di andare avanti così a bassa quota a sbucare sul mare Adriatico. Grazie molte, camerata! Grazie molte! Furfante, ha visto Fio e ha sentenziato una perla a un porco. Bellissima. Proprio la singola rosa fiorita in un giardino segreto. Ma che mascalzone. Questo qui è un giardino privato. Desideravo a ogni costo mostrarti questa. Ah, ma viene da Hollywood. In merito alla cineproduzione e interpretazione del copione da voi inviato? Stante il promettente corso di valutazione, richiedono urgente contatto. Il titolo sarebbe Il mazzo di fiori del mare Adriatico. Ma è meraviglioso. Davvero? Beh, allora è deciso. Gina, andiamo a Hollywood insieme. Fare la guardia del corpo dei pirati del cielo è soltanto un passo verso fama e fortuna. Poi sarò una grande star di Hollywood. E poi ancora? Il presidente! Io faccio sul serio. Gina, vedrai che io ti renderò senz'altro la moglie di un presidente. Gina. A me questo vostro lato così stupidino piace. Davvero? Però niente da fare, perché al momento io ho in corso una scommessa. Ho scommesso che se una certa persona verrà a trovarmi quando io sono in questo giardino, allora sarà davvero la volta che l'amerò. Però quello stupido non viene che di notte al locale. Alla luce del sole non si fa vedere neanche un po'. Furfante è tornato in sella. Se ne è andato senza scendere. Ho di nuovo perso la scommessa. Non può essere! La scommessa tratterebbe di quel furfante! Non va bene? Da queste parti la vita è un tantino più complicata che nel vostro paese. Anche se per amarsi si può quando si vuole. A Hollywood vacci pure tutto da solo, bimbo. Bimbo? Mettersi a fare acrobazie all'improvviso? Ho sbattuto la testa! Salutavo una vecchia conoscenza. La signora Gina dell'Hotel Adriano? La persona vestita di bianco sulla terrazza di prima, eh? L'ho saputo dal nonnino, sai? Che tutti i piloti di idrovolanti del mare Adriatico sono innamorati di Gina. E chi è tuo importuno? Senti, ma la signora Gina che tipo è? Ne sei innamorato anche tu, porco? Scendiamo a fare il rifornimento. Se non smetti di chiacchierare, ti morderai la lingua. Una femmina a bordo di un idrocaccia! E porco? Fa discorsi difficili col mio papino. E non è soltanto il governo provvisorio, si tratta persino della fazione dei monarchici. Gira voce, si muovono verso l'affiliazione con l'alleanza dei pirati del cielo. A dare la caccia ai pirati del cielo oggigiorno non si fa più neanche un soldo. Ecco fatto. Scusa l'incomodo. E basta, sempre parlare di recessione. Ma che, porco, potresti rivenderti anche tu a una delle parti. Per la tua abilità tirerebbero fuori dei bei soldi. Hai delle sigarette? Quel Curtis finirà presto per tornarsene in America, sai? Ad avercene andare in America saremmo piuttosto noi altri. Sarebbe a dire addio ai giorni liberi e sregolati sul mare Adriatico. E questa era di Byron? No, è mia. Alla prossima. Grazie mille! Ehi, porco! Ma è tremendo! Il carburante è al triplo che in Italia! È una follia! E non prenderci per il collo, faccio uno sconto. Guarda che la nostra non è mica miscela. Ecco perché non le reggo le femmine. Ehi, padrone, ditele qualcosa. Avanti, pagalo, fio. E quando avrai fatto, rimetti quel sedere più grosso di quanto sembri nel vano delle mitragliatrici. Si decolla alla volta del covo. Anche la spesa per il carburante la inserirò ben bene in fattura. Non era strozzinaggio. Si tratta di sostenersi a vicenda. Sia mare che terra hanno un bell'aspetto, ma da queste parti non c'è un soldo, sai? Avvistata, è quell'isola. Che covo fantastico! Ah, il sedere mi si è tutto irrigidito! Certo che la sporcizia è di nuovo venuta fuori in abbondanza. Capo! L'abbiamo catturato! Capo! Merda, ma cosa camminate sopra la gente? Scansatevi! Ti stavamo aspettando, porcellastro! Non sapevamo che saresti venuto! Con te siamo pieni di conti in sospeso! È una ragazza! Il maiale in barca è una ragazza! Che carina! Silenzio! E che sarà mai una femmina? Metà del mondo è fatta di femmine! Ehi, quella piccola non è una semplice ragazzina. È il progettista capo della ditta Piccolo. Anche se è così giovane e carina. Ma è una femmina, dici sul serio? Ha reso il mio aeroplano di gran lunga migliore di prima. È giovane, ma ci sa fare. Davvero, porco? Non mento mai quando si tratta di idrovolanti. Trattatela con riguardo, mi ha seguito per venire a recuperare i suoi crediti. Hai i debiti anche tu, dannato, ti sta proprio bene! Ehi, che del suo aeroplano sfrontatamente tutto rosso rimanga soltanto il debito, fatelo a pezzi! Fare a pezzi? Vorreste fare a pezzi l'aeroplano che ho costruito io? Cioè, fareste a pezzi con l'accetta un aeroplano così bello? Signorina, per tutto ciò vi sono profonde motivazioni. Lo fareste a pezzi? Beh, vedete, ecco. E in tutto questo voi sareste piloti di idrovolanti? Spostatevi, le mie scarpe. Io, sapete, sono cresciuta ascoltando racconti sui piloti di idrovolanti sin da quando ero piccola. Non esistono uomini più gradevoli di coloro che pilotano gli idrovolanti, il mio nonnino lo diceva sempre. E questo perché sia il cielo che il mare entrambi lavano gli animi di tutti loro. Per questo i piloti di idrovolanti sono più impavidi dei marinai e sono più fieri dei piloti di semplici aeroplani. Non c'è altro da aggiungere. Tale è colui che pilota un idrovolante. Per loro ciò che è più importante di tutto non sono né le donne né il denaro, bensì l'onore. Esatto, è proprio così. Hai ragione, ragazza. Urrà per i piloti di idrovolanti. Ma che ragazzina assurda. Ho afferrato il discorso. L'idrovolante che tu hai costruito rinunciamo a farlo a pezzi con le accette. Però se ci ritirassimo in questo modo non proteggeremmo l'onore dei pirati del cielo. Riducete il maiale a macinato. Giusto! Tritiamo il porcellastro. Ma che razza di porcate state dicendo? Non avete afferrato un bel niente. Quel che sto chiedendo è se voi altri non proviate vergogna. Facendovi aiutare dall'americano Curtis state belli tranquilli, eh? Se lo sapessero le vostre mamme piangerebbero di certo. Ma dico, non vi fate neanche il bagno. E porco è tornato qui per battersi in una sfida uno contro uno con Curtis per l'onore e l'orgoglio dei piloti di idrovolanti del mare Adriatico. Gli uomini senza spina dorsale né decenza sono il peggio. Combattete con dignità. Per questo io ero contrario ad assumere Curtis. Ma che razza di donnicciola! Subito che provi a chiamarti fuori! Capo, cosa facciamo? Di potere persuasivo ne hai come? Qui c'è perlomeno da salvare la faccia ad entrambe le parti. Proviamo a rimetterci a quel Curtis. Dici chiedergli di confrontarsi di nuovo con il maiale? Certo, il contratto è scaduto. Io mi vergogno. È quel furfante di Curtis! Ho sentito il discorso, ma io non scappo né mi nascondo! Ma che pezzo di idiota, arrivare a farsi strada in un posto simile. Oh! Senti, tienimele un po'. A farla breve vorresti fare la rivincita, giusto? Tuttavia, il confronto si è già risolto una volta. E inoltre io non sono più la guardia del corpo di questa gente. Cioè a farle basta non ci stai? Le condizioni? Mm-hmm. Bellissima. Se dovessi vincere io, ti sposeresti con me? Io faccio sul serio. D'accordo, ho capito. Ma in cambio, se dovesse vincere Porco, queste fatture le pagherai tu. Fio, aspetta! Tu stai indietro! Fio! Signorina Fio, se vogliamo annullare il termine adesso. Se è per chiederlo, chiedilo a lui. Sono un pochettino alte queste fatture. Prezzi economici. E insomma, ci stai o non ci stai? Sarà per colei che amo. È con gioia che combatterò. Bene. Ascoltate tutti! Io sono stato ammaliato dal temperamento della signorina Fio. Questo duello verrà gestito da noi della banda Mamma Aiuto! Sì! Metti dentro anche gli alleati! Forza! Forza! Signorina Fio, ci vediamo! Presto! Brutte merdacce. Ehi, porcellastro! Non scappare, eh! Silenzio! Datemi una mossa a sparire! Arrivederci! Ma dico, in che stramberia ci siamo cacciati? E innanzitutto tu! Non ti arrabbiare! Lo so da sola che sono stata una stupida. Fio, sia come sia, pare proprio che ti debba ringraziare. Tu mi hai fatto avere una possibilità. Ti ringrazio molto. Vuol dire che noi saremo uniti nel destino. Vale a dire che siamo partner. Il confronto sarà alla pari. Io credo in te, Porco. Credere, è una parola che detesto, però se a dirla sei tu, alle orecchie suona diversa. Che cosa succede? Forse non ti senti bene? Fio! Tutto a posto. È che ora d'improvviso il cuore mi batte così forte da sentirmi soffocare. In verità ho avuto proprio tanta paura. Ma che guaio, mi stanno tremando anche le ginocchia. Ehi! Io vado a nuotare. Che succede? Le fatture di prima, avrei fatto meglio a gonfiarle. Ci abbiamo perso. Non hai torto. Porco. Non riesci a dormire? Giusto prima, sai? Sarà stato un sogno. Rilassati e dormi, domani ci alziamo presto. Porco. Sì? Porco, come mai sei diventato un maiale? E chi lo sa? Io so molte cose sul conto del capitano Marco Pagot. Mio padre era nel suo stesso stormo, no? La storia del capitano che scendeva sul mare in tempesta al salvataggio dei piloti nemici mi piaceva tanto che l'ho ascoltata infinite volte. porco. E se io provassi a darti un bacio? Eh? Dai, non c'è quella storia del principe diventato Ranocchio che ritorna a essere umano con il bacio di una principessa? Razza di stupida! Cose del genere, tienitele per i momenti più importanti. Magari io non andrei bene. Tu sei una brava piccina. A guardar te, Fio, mi viene da pensare che l'umanità non sia poi da buttar via. Su, da brava, mettiti a dormire. Se mi racconti una storia, poi mi addormenterò. Una storia? Vediamo. Quella fu l'ultima estate della guerra. Noi facevamo la solita perlustrazione, puntando verso l'Istria, pattugliavamo sul mare Adriatico. Di fianco a me volava un certo Berlini. Era un mio vecchio amico e questo mio compare si era sposato appena 2 giorni prima. Io gli avevo fatto da testimone e si era celebrata la cerimonia, ma per i pochi giorni di permesso ci eravamo dovuti riprecipitare dritti al fronte. Intorno sia i loro che i nostri cadevano come mosche. Io venivo braccato con perizia da 3 aerei. Non avevo neanche il tempo per fare attenzione ai miei compagni e a un certo punto dei nostri ero rimasto solo io. Ma anche così quelli non mi mollavano. Scappavo e scappavo come un forsennato. Sia braccia che gambe mi si erano intorpidite, mi si erano persino accecati gli occhi. Pensai ormai è finita. Fu in quel momento. D'un tratto dinanzi ai miei occhi si era fatto tutto bianco. Tutto bianco? Già. O potrei meglio dire, dentro alla luce. Per la strana luminosità mi ci volle un bel po' di tempo per realizzare che mi trovavo dentro alle nuvole. Io ero così esausto che non mi restavano neanche le forze per governare il velivolo. Eppure, l'aeroplano continuava a volare da solo. Una distesa di nubi. Già, c'era una quiete spaventosa. Il cielo era veramente stupendo. E tanto più in alto c'era una misteriosa nube che scorreva in un lungo filare. Berlini, sei sano e salvo? Berlini, aspetta! Dove stai andando? Berlini, non andare! Come pensi di fare con Gina? Vado io al tuo posto! Quando ripresi i sensi, stavo volando sul pelo del mare, io da solo. Dio ti ha detto che non dovevi ancora andare. A me sembrò come mi avesse detto: tu resta a volare per sempre da solo a quel modo. Non può essere così, perché Porco è una brava persona. Quelli bravi erano quelli che sono morti. E inoltre può darsi che laggiù ci fosse l'inferno. Su, il racconto è finito, mettiti a dormire. Furfante di un rigattiere, ma rifilato proiettili arrugginiti. Io sono felice che Porco sia ritornato da vivo. Perché io ti voglio bene, Porco. Buonanotte! Che deficienti, ne hanno fatto una festa popolare. Queste persone sono tutti pirati del cielo. Sono immondizie di mare e di terra. Gruppi criminali, bande di pirati e contrabbandieri, spie in borghese. E in mezzo che ci sia anche un po' di gente rispettabile. E con questo la mia fama crescerà più e più ancora. 10 minuti alla partenza! 10 minuti alla partenza! Da adesso daremo inizio al duello di Porco Rosso contro Donald Curtis! Nessuna regola in particolare, tuttavia colui che mostrasse una condotta scorretta sarà coperto di infamia eterna. Basta con le manfrine! Andiamoci a cominciare! Siamo venuti per sentire il tuo discorso! State zitti! Quelli che faranno i brontoloni li ammazzeremo! Dovrebbero buttare una bomba da 10 tonnellate. Questo è il duello che deciderà il destino della nostra adorata Beniamina, la signorina Fio Piccolo! Non sono ammesse lagnanze! Avete capito? Se avete capito, battete le mani! Applaudite! Muoviamoci a cominciare! Ma fa silenzio! C'è un'etichetta, un'etichetta! Dunque, entrambe le parti presentino le poste! Prego. Molte grazie. E muoviti a posarlo! Nessuna obiezione da entrambe le parti? Dunque, prima di cominciare, stringetevi la mano! Proprio non mi va. Io sono un amante del pulito. Zè, ma che razza di asociale scortese! Fio, una volta finita andremo subito in chiesa. Non preoccuparti. Stando a mia madre, più che la passione, conta l'abitudine. Potrebbe chiederti di farci una fotografia insieme? Ci siamo fatti il bagno! Signori, un bel sorriso! Ridete! Ecco! Termina entro i 3 minuti, nero vincente! È uno sballo, ma non si potrebbe farglielo fare ogni mese! Meno 15 secondi a via! Però che forza, eh! Meno 5 secondi! 4, 3, 2, 1, 0! Carti si è messo in alto! Qua la faccenda ha preso un andamento a senso unico. Prestamelo! Porco, ma che cosa stai facendo? Prendi quota! Se alzasse la testa adesso si prenderebbe i colpi in pieno, i bersagli a pelo d'acqua sono più difficili. Se vuoi farmi sprecare colpi in quel trucco, non ci casco. Un rientro avvitato! Il maiale si è messo in coda! Rientro avvitato? È con quella manovra che il maiale è diventato l'asso dell'Adriatico! Merda! Spara! Non sta sparando! Ho capito. Quel furfante avrà intenzione di non sparare fino all'ultimo. Eh? Il maiale di uccisioni non ne fa. Al momento l'americano è tutto pimpante, no? Ce l'hai lì! Spara! Ecco, infatti non ha sparato. Visto? È proprio come dicevo io. Sparando adesso finirebbe per colpire anche l'americano. Avrà intenzione di concludere piazzando due o tre colpi al motore quando l'altro si sarà sfuriato a girare. Sempre cose tipo, non siamo mica in guerra, che antipatico spocchioso. Porco. Dannato, intendi prendermi in giro? Apri il fuoco! E allora ti si sono inceppate le mitragliatrici, eh? Ti sta bene! Vengono da questa parte! Si fa beffe di me. Vienimi appresso, porcellastro! Non venite qui! Ah! Si è sganciato dal maiale! Scendete! Andatevene più in là! Che forza! Il maiale lascia scia di condensa! Una battaglia aerea così capita di poterla vedere una sola volta nella vita! Io sono commosso! Dopo tutti i preparativi, se non ci sbrighiamo finirà tutto! Il fatto è che si è rinchiusa in camera! Ma si andrà o non si andrà? Anch'io vorrei assistere. Alla G di Cuori, comunicazione per il maiale. L'aeronautica vi ha fiutato. Lasciate perdere la baruffa. F? Ma è Ferrarin. Devo sbrigarmi. Certo però che sono tutte e due proprio tosti. Il bello deve ancora venire. Porco! Dacci dentro! Braccio di porcellastro! Potrei mai concedere fio a uno come te? Eccoci! Il maiale si è messo in coda! È il gran finale! Ma che... gli è venuto di incepparsi! Ed è finish! Ma che... ma che... si sarà bloccata? Razza di idiota, guarda che tu hai esaurito i colpi! Ma che... accidenti, ha finito per staccarsi, colpa del sedere di Fio! Cose come un pareggio non sono contemplate! Non siamo mica in un western e vorresti colpirmi con roba del genere? Dannato! E un affare del genere dovrebbe arrivarmi? Hey-ho! Silver! Brutto maiale marcito! Dici che arrivano? Aio! Razza di pollastro! Ti hai preso, eh? Ma che per il tuo amore? Sta zitto, maiale lesso! La situazione è anche di strambo. Stanno scendendo! Sono rientrati! Ehi, aspetta! Le poste non si possono togliere! Non c'è scelta! Aspettatemi, dannati! Dannato maiale mangione! Cowboy da strapazzo! Fatti sotto quei pugni! Ritornatene dalle tue vacche! Così! Porco, quanti mazza! Alzati, porcellastro! Dannato gli occhi sporco! Razzati! Montante, montante! Capriti, capriti, capriti! Alla grande, le scommesse si può scommettere! L'associazione gestisce le puntate! Un gong! Non ci sarebbe un gong! Non si può avere più velocità? Impossibile! Il motore si fonderebbe! Certo che i piloti di idrovolanti sono proprio tutti stupidi. Io... L'hai visto il mio ultimo pugno? Alla prossima ripresa la faccio finita. Stavolta lo metto a nannina sul serio. Tieni duro, dacci dentro! Farò delle fettine di maiale. Fatti sotto, razza di donnaiolo. Il donnaiolo sei tu! Che insidi tutte quelle che ti capitano a tiro! Tu piuttosto! O Gina o Fio, quale delle due vuoi? Che cosa? Non monopolizzarmi! Guarda che Gina... Gina, non chiamarla con tanta confidenza! Guarda che Gina è innamorata di te! Lei se ne sta ad aspettare nel suo giardino! Da tanto tempo! Il tuo arrivo! Porco! Il gang! Vai col conteggio! Ma insomma, avanti, guarda! Avvistate, l'aeronautica italiana ancora non arriva. Ho osato raccontare quelle sporche frottole. Non capisce proprio quello stupido. Eppure non gli racconta frottole. Non avrai figlio! È l'aeroplano di Gina! Sono segnali di soccorso! One! Two! Vincerà three. Chi si rialza prima! Four. Gente, date strada, per piacere! Seven! Oh, Gina, no, non puoi! Eight. Marco? Marco, mi senti? Hai per caso intenzione di rendere infelice un'altra ragazza? Nine! Una sciocchezza. Su, avanti, la festa è finita. L'aeronautica italiana si sta dirigendo qua. Mettetevi presto tutti in fuga, per piacere. E di converso venite al mio locale, che vi sarà offerto un gran servizio. Ah, L'armaglio si fila via! È finita, eh? Fa silenzio, è l'etichetta, l'etichetta! Il maiale lo detesto, però tu mi piaci. Realizza buoni idrovolanti. Addio! Grazie molte! E ogni tanto fatevi il bagno, eh! Grazie molte anche a voi, Mr. Curtis. La prossima volta non sarà una scommessa, ma una proposta ufficiale. D'accordo, però guardate che io ho già deciso. Tu sali a bordo dell'aeroplano di Gina! Non voglio, no! Io salgo sul tuo aeroplano, porco! Non si era detto che eravamo partner! Ah! Gina, riportala nel mondo della gente rispettabile. Ma che vigliacco. Tu fai sempre così, non è vero? Mi dispiace. Su, andate. Partiamo. L'aeronautica italiana fa la sua comparsa. Mi dai una mano? Vado ad attirarli da qualche altra parte. Ma tu, la tua faccia! Ehi, aspetta! Mostrami la faccia, dico! Il tuo aeroplano è dall'altra parte! Solo un pochino! Anche se l'incursione dell'aeronautica italiana finì a vuoto e giunse il giorno del mio ritorno a Milano, Porco non si fece più vedere. Però, per contro, io divenni un'ottima amica della signora Gina. Da allora ci sono stati innumerevoli grandi conflitti e tumulti, eppure questa amicizia dura tuttora. Anche dopo essere subentrata alla guida della ditta Piccolo, passare le vacanze estive all'Hotel Adriano rimane una mia seria regola. La signora Gina diventa sempre più bella e ci si ritrovano anche vecchie conoscenze. Già, già, non è ancora diventato presidente, ma anche Mr. Curtis ogni tanto mi manda delle lettere. Che nostalgia quell'estate sull'Adriatico, dice. E come sia andata la scommessa della signora Gina è un segreto soltanto nostro. 時には昔の話をしようか通い慣れた馴染みのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日を むやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね道端で眠ったこともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな 下宿屋に幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走ったそうだね一枚残った写真をご覧よ髭面の男は君だねどこにいるのか今ではわからない友達も幾人かいるけどあの日のすべてが虚しいものだとそれは誰にも言えない今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよねどこかで